Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, un'altra puntata di Focus Economia, un'altra giornata in cui la cronaca economico-finanziaria si concentra sui dati italiani. Nel caso specifico, già i nostri GR vi hanno raccontato di Fiat. Alla fine si è risolto per fortuna in una bolla il tentativo di opposizione da parte dei fondi dell'Indiana, i fondi pensione dell'Indiana all'accordo Fiat Chrysler, soprattutto per quello che riguardava i risarcimenti. Ai creditori. Sergio Marchionne è il nuovo amministratore delegato di Chrysler. L'operazione a questo punto si può definire conclusa nella sua parte formale e, chiamiamola così, contrattuale. Poi vedremo più avanti la parte industriale. E primo aspetto, secondo aspetto, i dati sul PIL italiano e soprattutto sulla produzione industriale. Allora, qui bisogna capirsi, perché se si guarda il dato anno su anno, il PIL ha fatto un meno 6%. Ed è un dato che non si vedeva da tantissimo tempo. Meno 6% il primo trimestre del 2009 sul primo trimestre del 2008. Se invece andiamo a vedere il dato congiunturale, c'è un meno 2,6 trimestre su trimestre sul PIL. La notizia buona invece riguarda oggi la produzione industriale, che non è contemplata da questo dato, perché questo è il primo trimestre, cioè gennaio-marzo. La produzione industriale italiana ad aprile rispetto a marzo, continuiamo a dire che è importante guardare il mese su mese in questo periodo, non l'anno su anno, ha segnato per la prima volta dopo 11 mesi, ha avuto il segno più 1,1%. Certo, se si guarda la produzione industriale di aprile 2009 rispetto ad aprile 2008, il dato è tremendo ancora, meno 25%. Però almeno si è fermata la curva continuamente discendente. Poi recuperare un meno 25 non è che basti un più 1 ogni mese, ci mettiamo 25 mesi se avanti così. Però insomma, non facciamoci troppo la testa. Questa è la notizia principale di oggi, assieme poi chiaramente alla vicenda Fiat, e anche poi parleremo di dei temi che verranno esposti venerdì e sabato al convegno annuale dei giovani imprenditori a Santa Margherita Ligure. Vi sarà sabato anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, oltre che la Presidente della Confindustria Marcegaglia e chiaramente la Presidente dei Giovani Federica Guidi. Avremo anche un commento sulla borsa, quindi subito le notizie in breve. (349) 238 6666 il numero per i vostri sms. Un po' di pazienza chi scrive ancora per il dato sul PIL e sui singoli settori. Vi faremo ascoltare anche come si muovono i singoli settori nella produzione industriale. La borsa, dicevo, più 1,1% il FTSE MIB, Parigi più 0,40, Francoforte più 0,80, Londra più 0,80, l'America perde lo 0,3%. Chi va particolarmente bene oggi? Beh, un gruppo di banche, ma non solo. Intanto Fiat, dopo la notizia dell'accordo, ha fatto un più 4% che mantiene, più 4,4%. Prismian è il miglior titolo, più 6,34, Bulgari più 5, come stima Microelectronics, il 3,5 guadagna Saipem, il 3,40 Mediolanum, il 3,20 il Monte dei Paschi, e poi il 2,5 il rialzo di San Paolo e di Unipol, il 2% quello di Tenaris, di Luxottica, Eni più 1,70, Ubibanca un 1,5% di guadagno. Più contenuti i cali: Lottomatica meno 2,5, Banco Popolare meno 1,20, Pirelli meno 1,1, A2A meno 0,7, Atlantia mezzo punto percentuale di calo, come Mediaset, Autogrill e Snam Rete Gas. L'euro è sempre a quota 1,40 e qui veniamo veramente alla cronaca quotidiana, e il petrolio è sempre in crescita, $71,3 al barile dopo un taglio assolutamente inatteso delle scorte americane. Cioè le scorte americane sono risultate di petrolio chiaramente in calo più di ogni previsione, e questo ha portato, perlomeno questa scusa, questo spunto, ha portato il petrolio a $71,35 al barile. Nel frattempo però oggi il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana Pasquale De Vita ha fatto notare come il calo dei prezzi dei consumi di gas e dell'energia elettrica potrebbe portare a un risparmio nella bolletta energetica italiana di circa 20 miliardi di euro. De Vita, che ha anche chiesto un ripensamento sull'aumento della Robin Tax, ha sostenuto che il divario tra i prezzi della benzina in Italia e i prezzi della benzina in Europa si sta riducendo. E viste le polemiche di questi giorni, ne abbiamo fatte anche con lui, le polemiche due settimane fa su una benzina che va a 1,33 anche se il petrolio è a 70, al microfono della nostra Chiara Di Michele ha sottolineato che uno dei motivi del prezzo dei carburanti è il fatto che nel nostro paese si usa molto la formula servito e non il self-service. I prezzi dei carburanti alla pompa sono fatti esattamente in collegamento con i prezzi dei carburanti sui mercati internazionali, come avviene da noi e avviene in tutto il mondo, tant'è vero che noi che abbiamo una difficoltà dal punto di vista strutturale sulla rete, abbiamo troppi impianti e non amiamo come popolo scendere dalla macchina e fare benzina, perché teniamo conto che la differenza con gli altri paesi, che è di 3 centesimi e mezzo, è dovuta principalmente al fatto che negli altri paesi il 90% è self-service, si scende e si fa benzina, da noi il 40% è self-service e il 60% è servito, questo è già un costo in più. Quindi sono dei costi che noi stiamo cercando di eliminare nel tempo, ma questo e basta, il resto, le grandi battaglie si fanno a livello di 5 millesimi, di un centesimo, e qualche volta si sostiene, non a ragione, che ci sia di troppo. Sarà, mi sembra un po' così riduttivo pensare che l'unico motivo per cui da noi la benzina costa così tanto è che ci facciamo servire al distributore, ma vabbè, anche questo avrà una sua incidenza. Nel frattempo il ministro Scajola ha detto che chiederà conto all'industria petrolifera dell'andamento dei prezzi della benzina alla pompa. Io ascoltiamo Scajola e poi ricordiamo anche quali furono alcune proposte di legge poi mai attuate. La quotazione in rialzo in queste settimane del barile di petrolio è determinata da una ripresa di richiesta da parte dell'Asia, in particolare della Cina, e questo è un fatto positivo, vuol dire che l'economia si incomincia a muovere, sommata però ad una ripresa della speculazione internazionale. Abbiamo trattato questo argomento al G8 Energia qui a Roma con i paesi più importanti del mondo. La strategia è quella di un maggior colloquio fra paesi produttori e paesi consumatori per arrivare ad un prezzo non volatile, ma un prezzo giusto, per cercare di arrivare al prezzo giusto. Su questa linea le azioni del governo in Italia sono quelle di far sì che il costo finale della benzina e del gasolio alla pompa non sia più alto che nella media degli altri paesi europei, ed è un argomento sulla quale intendiamo insistere chiedendo conto alle industrie italiane petrolifere. Non si può tollerare che il prezzo cresca troppo velocemente quando aumenta il prezzo del barile e scenda troppo lentamente quando diminuisce il prezzo del barile. Così il ministro Scajola, al microfono della nostra Chiara Di Michele. Ora io ricordo, proprio come memoria di questo programma, che a livello bipartisan, cioè prima il centrodestra, allora sottosegretario vice ministro Valducci, se non ricordo male, le attività produttive, ministro Marzano dell'ultimo governo Berlusconi prima di questo, poi il centrosinistra, poi di nuovo il centrodestra, tutti a favore di una versione delle accise, cioè di quel 70% del prezzo della benzina che sono tasse anticiclica, cioè si diceva bene, vediamo che quando il prezzo della del petrolio è molto alto e quindi lo Stato già ci guadagna perché adesso il prezzo è passato da $35 a $70, che ci sia una forma, diciamo, si possono in qualche modo congelare queste accise, perché sennò oltre all'aumento del prezzo del petrolio lo Stato ci incassa anche di più. Tutte proposte mai concretizzate, sì, perché basterebbe delle volte congelare sterilizzare, come si dice in gergo, la parte variabile della tassazione per avere anche un beneficio noi tutti alla pompa. Vabbè, però poi sappiamo che i soldi alle casse dello Stato servono sempre, quindi poi le proposte restano solo politiche. Andiamo avanti. Parleremo più avanti, lo dico a chi scrive, di Marchionne, che è il nuovo amministratore delegato della Chrysler, e dentro la Chrysler vi saranno tre componenti scelti da Torino. Marchionne ha detto: questo è un giorno molto importante non solo per la Chrysler ma per l'intera industria dell'auto a livello mondiale. Poi c'è una notizia che riguarda il gruppo Renault, perché l'agenzia cinese che vigila sulla qualità ha bloccato l'import di diversi modelli del gruppo francese, sostenendo di aver riscontrato seri rischi per la sicurezza e anche la non osservanza di standard tecnici fissati dai regolamenti nazionali. Ancora due dati di carattere internazionale, poi arriviamo all'economia italiana. British Telecom taglia, oddio, internazionale ma molto legata all'Italia, taglia 320 posti in Italia su un organico di 1400 dipendenti. Taglieranno questi posti dal 2009 al 2012. Sempre in tema di licenziamenti, passano da 1500 per fortuna a 700 gli esuberi, come si chiamano in gergo, esuberi strutturali al Natuzzi in provincia di Bari. La Natuzzi produce divani, per chi non lo sapesse. Dovevano essere 1500, poi dopo una trattativa con i sindacati si è arrivati a 700 esuberi. Queste notizie in breve. Partiamo con il primo tema e mi riferisco quindi al dato sul PIL italiano nei primi tre mesi dell'anno, bruttissimo, e il dato sulla produzione industriale ad aprile, che invece mostra uno spiraglio soprattutto nel mese su mese. Era dal 1980, questo per dare la serie storica e statistica, che il PIL italiano non calava così tanto, meno 6%. L'Italia doveva ancora vincere i mondiali di Spagna, era un'altra Italia che usciva da un periodo difficilissimo, quella appunto di anni e anni di stagflazione. Questo il raffronto storico sul PIL, meno 6% infatti i primi tre mesi dell'anno rispetto ai primi tre mesi del 2008. A livello di trimestre su trimestre il dato è comunque pesante, meno 2,6%. A questo punto il calo del PIL acquisito, quindi se facesse zero nei prossimi trimestri, l'anno si chiuderebbe per l'Italia con un meno 4,7. Ecco perché poi le ultime previsioni della Banca d'Italia dicono: se va bene faremo un meno 5. Meno 5 è una cifra veramente pesante. Comunque non facciamoci troppo male. La buona notizia arriva dalla produzione industriale. Attenzione, meno 25% aprile 2009 su aprile 2008, ma più 1,1 aprile su marzo, e quindi si interrompe la serie storica che durava da 11 mesi di fila, tutti segni meno nel mese su mese. Nell'anno su anno invece c'è ancora, però per la prima volta il mese successivo ha avuto una produzione industriale in leggero aumento rispetto appunto in questo caso a marzo. Tutti i dati e i settori in questa scheda. Tre mesi di buio fitto rotto dai primi spiragli di luce. È in estrema sintesi la descrizione di quanto fotografano i dati su PIL e produzione industriale diffusi oggi dall'Istat. Gennaio, febbraio e marzo sono stati davvero mesi da dimenticare per la nostra economia e sono andati ancora peggio del meno 5,8% stimato inizialmente. Il PIL è infatti sceso del 6%, facendo registrare il peggior risultato da almeno il 1980. A questo punto la cosiddetta crescita acquisita per l'intero 2009 è del meno 4,7%. Questo in sostanza sarebbe il risultato del PIL a fine anno se nei prossimi trimestri si registrassero variazioni nulle del prodotto interno lordo. Più nel dettaglio, i primi tre mesi del 2009 sono stati caratterizzati da un vero e proprio crollo degli investimenti delle imprese, scesi di oltre il 12% rispetto all'anno prima. In calo, sebbene più contenuti, anche i consumi delle famiglie, meno 2,6%. A limitare l'ampiezza del calo complessivo sono state le spese della pubblica amministrazione, salite dello 0,8%. Quanto ai settori produttivi, è andata malissimo l'industria, con un calo su base annua del valore aggiunto che si è avvicinato al 17%. hanno retto i servizi con un calo del 2,6%, ma a cavarsela meglio è stata l'agricoltura, che ha chiuso il trimestre registrando lievissima crescita nel valore della sua produzione. I dati di aprile sulla produzione industriale fanno però sperare che la parte più dura della crisi sia alle spalle. Rispetto a marzo, la nostra industria ha infatti registrato un progresso dell'1,1%, il primo dopo 11 mesi consecutivi di calo. A crescere è stata soprattutto l'elettronica, con una produzione aumentata in aprile del 3,5% rispetto al mese precedente. In recupero anche scarpe ed abbigliamento, più 1,7%, così come la chimica e la farmaceutica, la siderurgia e gli impianti per la raffinazione del greggio. Stenta ancora invece la meccanica, che lo scorso aprile ha accusato una flessione mensile del 3%, e resta difficile anche la situazione dell'auto, con la produzione di veicoli scesa dell'1,5% rispetto allo scorso marzo. Avete ragione nello scrivere che se uno fa meno 25% poi non basta un più 1%, i discorsi se... E valevi 100, fai meno 25, vai a 75, poi per recuperare hai voglia botte di più 1%, quanto ci metti? Però vediamo anche di immaginare in radio un po' difficile un grafico in cui c'era questo diagramma che scendeva continuamente da 11 mesi nel mese su mese, e finalmente c'è un piccolo segmentino, pezzettino con il più davanti. Poi ovviamente parlare di un PIL che ha già perso quest'anno come calo acquisito il meno 4,6, chi l'avrebbe mai detto? Tant'è che il ministro Tremonti, che non può certo essere accusato di pessimismo, oggi a margine del congresso delle ACRI a Siena ha invitato alla prudenza proprio alla luce di questo dato del più 1% nella produzione industriale aprile su marzo. Siamo ancora in terra incognita, non c'è mai stata una crisi fatta così, ecco, proprio non c'è mai stata, per origini, per dimensione, per dinamica. Quindi se io sono obbligato per legge a mettere un numero, applico la legge, ma se uno è convinto di che siano credibili quegli esercizi, o meglio, è giusto anche fare quegli esercizi, però quello che abbiamo convenuto in sede europea tra i ministri della nostra area, tutti a ridere, è stato che il vero stimulus non consiste nel darti il bonus per comprare qualcosa, ma nello staccare la televisione. Vabbè, speriamo non spegnere anche la radio, lo diciamo chiaramente in conflitto di interesse, però insomma prudenza, questo è l'invito del ministro Tremonti. Che sostiene quanto devo dire ci hanno ricordato la maggior parte degli economisti, penso all'ultima intervista fatta con Nouriel Roubini, e cioè il disegno di questa crisi è sconosciuto. Tremonti parla, a mio avviso correttamente, di terra incognita, cioè non abbiamo mai esplorato un mondo del genere. Le crisi precedenti avevano magari un'intensità molto forte come questa, ma poi avevano anche un'intensità molto forte nel recupero, facevano una specie di V. Qui, da quello che si capisce, dovrebbe essere finita la parte discendente, ma il recupero potrebbe essere molto molto molto lento. Tremonti è entrato oggi anche su un altro tema, o è tornato per meglio dire, visto che sulle pensioni si era già espresso nel passato, la richiesta che è arrivata dalla Confindustria, della Confesercenti, dalla Banca d'Italia, mettere in mano le riforme proprio ora che l'Italia attraversa anche una difficoltà economica non da poco, mettere in mano le riforme della previdenza, riforme del welfare, riforme strutturali che diminuiscono anche i costi per lo Stato. Per quello che riguarda la riforma delle pensioni è stato netto il ministro dell'economia, già aveva ribadito il suo no, ma è tornato sul tema e ha detto: in questo momento il sistema pensionistico in Italia è in equilibrio. Ascoltiamolo sempre al microfono della nostra Paola Cavalli. Riforma delle pensioni, la chiedono quelli che non vogliono gli operai anziani in fabbrica, e il sistema europeo di pensioni vede l'Italia messa nella media. Si può fare di più, certo si può fare di più. Se uno mi chiedesse cosa fare, e dirò cosa fare, adattare l'età all'andamento demografico generale. Ma il tempo del welfare è la longue durée, sono le decadi. I risultati ce l'hai nel lungo andare. Questo non è un paese che ha bisogno di... E lo dice uno che l'ha fatta, la riforma Maroni-Tremonti aveva un impatto molto forte. Altri hanno detto troppo forte. Hanno tolto qualcosa e, come dice il ministro Padoa-Schioppa, hanno buttato via 10 miliardi di risparmi. Ma in ogni caso la riforma è in pista, anche smontato il gradino. Di fatto il sistema è in equilibrio. Non abbiamo più bisogno di quelle manovre che modificano di colpo il progetto di vita di una persona per far su 8, 9, 6, 10 miliardi. Nella lunga durata dobbiamo fare degli adattamenti, ma devono essere le cose condivise con le parti sociali, in ogni caso delle cose giuste, che siano sentite come giuste. Non si fanno le manovre sulle pensioni. Non ha senso se vuoi la coesione sociale. Beh, io trovo molto interessante questa dichiarazione di Tremonti, che, ripeto, non è nuova. Il suo scetticismo sulla riforma delle pensioni è noto, ha, come è giusto che sia per un ministro, anche una matrice politica, non solo economica. Cioè, si ritiene che una parte importante della maggioranza, penso soprattutto alla Lega, non ha mai visto di buon occhio una riforma delle pensioni, ritiene che andrebbe a creare, a erodere il consenso politico. È anche importante però l'inizio di questo passaggio del ministro Tremonti: la riforma delle pensioni la chiedono quelli che poi non vogliono gli operai anziani in fabbrica. E questo, diciamo, al di là dello slogan politico, è un tema, lo dico a tutti. Cioè, bisogna capire se da un lato si deve insistere sull'innalzamento dell'età pensionabile e poi dall'altro quello che si fa in tempi di crisi è il prepensionamento, quando un'azienda vuole far entrare persone più fresche e nuove tende a prepensionare con gli scivoli, insomma. Per cui vediamo di capirci se poi i costi dello Stato devono mandare in pensione gli insegnanti prima o prepensionare i professori universitari, è inutile poi chiedere l'innalzamento dell'età pensionabile. I paradisi fiscali, un Tremonti a tutto campo, quello di oggi, dal congresso nazionale, il 21esimo congresso nazionale delle casse di risparmio. E ha detto Tremonti, la direttiva europea va rivista. I nostri dati, tutta Europa, indicano che la direttiva europea sul risparmio, che prevede una ritenuta secca, hai l'anonimato, il segreto, ma paghi una ritenuta secca, è aggirata. Evidentemente chi ha i soldi fuori non è contento e mette i suoi soldi in una società anonima. Così salta anche la ritenuta secca. A noi non sembra giusto questo e vogliamo rivedere tutto. Allora abbiamo cominciato a dire così non va. Ieri è stata posta la questione dell'attività della BEI nei paesi che non collaborano e hanno detto la BEI non può lavorare nei paesi che non collaborano. Germania e Francia sono molto decise su questo e naturalmente anche noi. E diciamo che dietro questa pressione di Germania, Francia e Italia nei confronti dei paradisi fiscali c'è sia la legittima voglia di mettere mano alle regole che hanno permesso, o l'assenza di quelle regole che ha permesso crearsi una bolla speculativa come quella che è scoppiata l'anno scorso. I paradisi fiscali infatti erano il perfetto canale di transito per certe operazioni di pura speculazione immobiliare, carta tossica su carta tossica, ma c'è in molti governi europei, incluso quello italiano, l'ipotesi di lanciare uno scudo fiscale, ormai se n'è anche scritto, e quindi chiaramente il rientro dei capitali all'estero diventa ancora più così importante se stringi le regole verso gli stessi paradisi fiscali dove questi capitali sono depositati. Dopo il meteo e la pubblicità, l'ultimo aspetto del Tremonti pensiero oggi all'Acri, il rapporto con le banche, anche perché è intervenuto appunto all'assemblea delle casse di risparmio. E come sempre il rapporto del ministro Tremonti con il mondo bancario è un rapporto dialettico. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. A chi ci chiede ancora del PIL non vi preoccupate, torneremo a analizzare invece alcuni aspetti più congiunturali di tendenza alle 18:10. risulta anche a noi, purtroppo, lo dico, parlando con, diciamo, con gli imprenditori off records, che a maggio siano tornati un po' i problemi sugli ordinativi e la produzione industriale. Speriamo vivamente di sbagliarci. ...17:36, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Arriveremo adesso anche alla borsa. Vorrei concludere però l'esposizione, mettiamola così, dei punti più importanti delle dichiarazioni di oggi del ministro Tremonti. Del dato sul PIL e la produzione industriale abbiamo detto, e avete anche ascoltato l'estrema prudenza del ministro. Terra incognita quella che abbiamo di fronte. Poi avete anche ascoltato le dichiarazioni sulla riforma delle pensioni, esclusa la necessità immediata di una riforma delle pensioni, il sistema, ha detto Tremonti, è in equilibrio. E poi con una chiosa un po' più velenosa, dicendo insomma la riforma delle pensioni in fabbrica la chiedono quelli che poi non vogliono gli operai anziani in fabbrica. E adesso anche la parte che riguarda il rapporto banca impresa sul dato di maggio. Non è che lo dicano solo gli imprenditori off the record, c'è anche stata una nota oggi della Confindustria che ha detto, come centro studi, attenzione, a maggio tornerà a calare la produzione industriale. E il CSC, il centro studi Confindustria, stima un altro meno 1,2%, purtroppo. Comunque, i Tremonti Bond, riconosce il ministro Tremonti che le banche stanno iniziando ad usarli, anche il credito valtellinese ne ha fatto richiesta, e sta aumentando il numero di banche che ricorre allo strumento messo a disposizione dal governo. Troppi, anche troppo importanti, hanno detto costa troppo debito, allora vuol dire che non lo vuoi fare, allora fai prima a dire che non sei d'accordo, perché quello non è uno strumento, essendo ibrido, non è uno strumento che conta come debito, è uno strumento che conta come patrimonio. Vai a fare l'aumento di capitale e vedi quanto ti costa. Quindi in realtà dietro, ma insomma quella fase è finita, ogni giorno aumenta la lista delle banche che chiedono, non una logica di ossequio al governo, non una volontà di farsi occupare dal governo, ma nella giusta logica di aiutare l'economia e le imprese. E però c'è stato anche, non so se un botte risposta, quantomeno una precisazione, chiamatela come volete, tra il ministro Tremonti ospite e l'ospitante Giuseppe Guzzetti, presidente della fondazione bancaria, delle ACRI, che ha chiesto al ministro, insomma, basta con la polemica continua tra governo, e nel caso specifico il Ministero dell'Economia, e il mondo bancario. Sentiamo Giuseppe Guzzetti. Ritengo che devono essere utilizzati i bond messi a disposizione dal Ministro dell'Economia in funzione di una maggiore liquidità da parte delle banche per finanziare il sistema delle imprese italiane. Qui io devo dire, signor Ministro, che non condivido questa continua polemica sulle banche, me lo lasci dire con serenità e con modestia, io non sono un banchiere, non me ne intendo, insomma. Io mi pongo una domanda da profano. Perché mai la banca, che ha come mestiere quello di raccogliere i soldi, di prestare i soldi, non dovrebbe prestare i soldi a sostegno dello sviluppo economico per farsi carachiri nei conti economici? Certo, oggi la situazione è molto complicata. Ci sono situazioni dove nei momenti di crisi emergono le situazioni patologiche, non le situazioni fisiologiche di vigilanza. Credo che i nostri colleghi delle banche possano portare qualche parola di ulteriore conferma all'impegno delle nostre banche a sostenere le nostre imprese, le nostre aziende, lo sviluppo economico. Così il presidente dell'ACRI Guzzetti, appunto, nel rapporto banche imprese. La borsa, volete sapere, per quello che riguarda la borsa, la chiusura è tutto sommato in linea con l'ultimo aggiornamento, più 1,1 il FTSE MIB, 0,5% Parigi, 1% Francoforte, Londra più 0,80. Vorrei però concludere questo tema legato all'uscita dalla recessione, il mondo produttivo, perché venerdì si aprirà a Santa Margherita Ligure l'annuale convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Il titolo è emblematico, dopo, cioè dopo la crisi. E allora siamo in collegamento con la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Federica Guidi. Buonasera. Buonasera. Allora, dottoressa Guidi, voi avete fatto un titolo molto molto particolare, e cioè dopo, con il punto esclamativo, e poi la crisi, l'Italia e come prepararsi per ripartire. Alcuni potrebbero dire che pensare al dopo è un bel esercizio così di quasi di astrologia delle volte, visto che tutti siamo alle prese con la saggistica e la narrativa su questa crisi, sugli effetti che sta portando, su quando se ne uscirà. Come mai avete intitolato l'edizione di quest'anno dopo? Per i motivi un po' che diceva lei, ma soprattutto per superarli, nel senso che credo che sia poi proprio compito, ecco, della componente giovane, diciamo così, anche del sistema confederale, preoccuparsi della prospettiva, dello scenario, del futuro, anche se questo futuro oggi è per tutti, insomma, un po', diciamo, un po' incerto e ci spaventa. Però insomma, quello di cui vorremmo parlare non è tanto, ecco, appunto, il perché o il per come ci siamo entrati, ma soprattutto come e quando ne usciremo. Essendo convinti che comunque un dopo ci sarà, e cercando di portare sommessamente, ecco, alcune proposte, cercheremo di fare appunto alcune proposte concrete, soprattutto al governo in generale, insomma all'opinione pubblica, a portare il nostro contributo per quel po' di ricette che dal nostro punto di vista servirebbero per le imprese, per le piccole, per le medie in generale, insomma per il sistema industriale, a uscire meglio e prima da questa crisi. Ma il punto, l'incipit nostro è che dalla crisi siamo convinti che ne usciremo e che i giovani imprenditori e, diciamo, le imprese che noi in qualche modo rappresentiamo vogliono continuare a rischiare, vogliono continuare a fare questo mestiere, vogliono continuare a credere che è possibile continuare a produrre e a fare impresa in questo paese. Restiamo al tema che vale per tutti, non solo per i giovani, cioè da questa crisi si uscirà, già i segnali sono di una stabilizzazione, quindi di un arresto della caduta continua. Si uscirà, vedremo se poi a inizio 2010 o a metà del 2010. Lei già accennava alle domande alla politica o alle proposte alla politica. Voi avrete un panel come ogni anno di tutto riguardo, chiuderà i lavori il Presidente del Consiglio, l'intervento di sabato sarà l'ultimo intervento politico, quello di Silvio Berlusconi, ma sono attesi anche il Ministro Sacconi, il Ministro Matteoli, l'ex ministro e ministro ombra economico del PD Bersani. Che cosa chiederete, oltre che proporre, al governo? Perché su questo anche la Confindustria, diciamo, senior, quindi la presidente Marcegaglia, ha ricordato che insomma, serve che arrivino i soldi promessi, che arrivino le misure annunciate. Ma noi, diciamo, in generale chiediamo che si affronti il tema delle riforme, una su tutti, la riforma fiscale. Ecco, noi diremo che pensiamo che ci sia una strada quasi obbligata, che è quella di iniziare a mettere mano al sistema di pressione fiscale che in questo paese c'è, pressione che grava sulle imprese, che quindi poi grava sui cittadini, su tutti noi, insomma. E soprattutto che servono queste riforme, perché la cosa più importante per uscire meglio e prima in un orizzonte temporale, diciamo, di medio periodo, ecco, quei 2-3 anni che noi così idealmente abbiamo di fronte, per uscire da questo tunnel serve non fermare il flusso degli investimenti, non dare alle imprese la capacità di continuare a investire in innovazione, in ricerca, investire come si fa sempre, insomma, nel tentativo di continuare a portare le nostre imprese e i nostri prodotti in giro per il mondo, e per fare questo e per continuare naturalmente poi a produrre e a creare ricchezza a beneficio di tutti in questo paese. Ecco, noi pensiamo che ci servono alcune riforme, prima fra tutti una riforma sul tema della pressione fiscale. Queste sono, diciamo, richieste che condividete anche con la parte senior, con i vecchi, chiamiamoli così, insomma, anche se tanto vecchi non sono, industriali. Che cosa potrebbe dare in più la parte giovanile della Confindustria, quindi voi e lei come presidente dei giovani? Noi entreremo nel dettaglio, entreremo in qualche proposta, così insomma, diciamo qualche provocazione, ecco, appunto, sul tema soprattutto del cambiamento del modello di pressione fiscale che noi abbiamo in questo paese. Quindi naturalmente il messaggio è quello di continuare a dare questa linfa vitale alle imprese, cioè non diciamo, continuare ad aiutarle, ecco, a non bloccare a maggior ragione in questo momento gli investimenti. Quindi su tutti ci sarà questa logica un po', ecco, del chiediamo per comunque consolidare meglio le imprese, patrimonializzare meglio e in qualche modo rilanciare gli investimenti o mantenere il flusso di investimenti meglio. Se posso dire un po', questa sarà la novità, ecco, saranno delle tesi che saranno così, avranno un incipit di scenario, ma forse per la prima volta, dati i tempi, ecco, ci permetteremo di entrare un pochino più nel dettaglio tecnico di alcune proposte operative, soprattutto sul fronte dell'imposizione fiscale. Beh, allora in bocca al lupo per venerdì, quando appunto a Santa Margherita Ligure si aprirà il tradizionale convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. In bocca al lupo alla loro presidente Federica Guidi. Grazie mille, grazie a lei, buonasera. La borsa dunque, dopo aver parlato a lungo di economia italiana, e vi torneremo anche nella seconda ora del programma. La borsa, dicevo, più 1,1% Milano, meglio di Parigi che ha guadagnato mezzo punto percentuale, di Francoforte più 1 e di Londra più 0,6%. L'America resta debole, perde uno 0,20%, euro quota 1,40. Guido Maurino, Radio Corri, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, i titoli, poi andiamo al resto. Dello scontro tra Giovanni Tamburi e Carlo Benedetti abbiamo parlato e raccontato ieri a lungo, mi riferisco alla società Management e Capitali e al no di Tamburi all'aumento di capitale. E le CIR, devo dire che oggi guadagnano l'1,7%, che il miglior titolo in assoluto è Pininfarina sulle ordinarie più di 20%, Banca Profilo più 16%, Stefanel più 12%, il peggior titolo Investimenti e Sviluppo perde il 6%, Mariella Burani Fashion Group perde il 5,6% e poi poco altro, l'Ottomatica perde il 2,5%. Tra i titoli più grossi invece spiccano Prismian, Bulgari ed ST Microelectronics più 6,5%, più 6,3% e più 6,1%. Poi c'è Fiat che guadagna quasi il 5%. Ma di Fiat parleremo nella seconda parte del programma. Prismian, Bulgari ed ST Microelectronics. Sì, allora iniziamo da Prismian, che è il migliore dei titoli del FTSE MIB. Prismian ha chiuso oggi in rialzo del 6,55%, grazie soprattutto ai movimenti dei fondi che sono numerosi nell'azionariato di questa società. Anche oggi dalle comunicazioni Consob è emerso ad esempio che nei giorni scorsi UBS è prima salita e poi scesa sotto il 2%, ma oltre a questi movimenti di fondi abituali per questo titolo c'è anche da sottolineare che la società è ben posizionato per approfittare in qualche modo del rilancio degli investimenti in Cina. Da tempo la Cina aveva annunciato la costruzione di 24.000 km di nuove linee elettriche, cosa che ciclicamente tornano anche a far muovere il titolo. Inoltre poi la società sta rafforzando anche la sua posizione come fornitore di cavi in fibra ottica verso i grandi operatori della telefonia cinese. E la Cina rappresenta sicuramente un mercato di sbocco importantissimo per Prismian. ST Microelectronics più che altro vive o gode del rialzo su Texas Instruments, delle stime a rialzo su Texas. Sì, come già era accaduto ieri, anche oggi sostanzialmente il titolo approfitta di un rialzo generale di tutti i titoli tecnologici, seguito proprio alla revisione al rialzo delle stime da parte dell'americana Texas Instrument. Dopo aver guadagnato ieri cioè quasi il 4%, oggi ha messo a segno un altro più 6,14%, e insomma c'è un ritorno di attenzione sui titoli tecnologici. Bene, tutti i petroliferi, chiaro, con un petrolio che va a 73, capirai che comunque Saipem più 3,6%, Eni più 1,70%, ma sono saliti anche Erghe e Saras. Sì, come dicevi tu, sostanzialmente con un prezzo del petrolio che continua a salire, spinto da prospettive sull'economia in crescita o comunque migliore, diciamo spinto e basta, perché io ormai non ci credo più alle prospettive sul petrolio, diciamo spinto, sì, e comunque insomma per il momento il mercato ha continuato a spingere gli acquisti su Saipem, che ha guadagnato il 3,63%, Eni ha guadagnato l'1,76%, un po' meno bene sono andate Erga più 0,49% e Saras più 0,24%, ma su questi ultimi due titoli pesano in qualche modo le revisioni al ribasso del prezzo obiettivo operato da JP Morgan, che proprio su ERG ha tagliato da 11 a 9 euro, mentre su Saras da 3 a 2,2 euro. Poi c'è una vicenda che riguarda anche la geopolitica. Mer Tecnimont è tra i migliori oggi, non l'ho citata, ma guadagna il 6,70%, titolo molto sottile, ma grazie a un accordo per il trasferimento del gas in Iran. Sì, questo accordo prevede sostanzialmente la creazione di un mega impianto con un investimento complessivo da 1,3 miliardi di euro in Iran, e di questa la competenza per Mer Tecnimont è di 200 milioni. Questa notizia ha fatto salire oggi il titolo, che ha guadagnato appunto 6,7%, quindi una grossa commessa, diciamo, per la società. Ancora sui titoli a maggiore capitalizzazione, bene i bancari, Monte dei Paschi più 4, Mediolanum più 3,1, Fondiaria più 2,70, Intesa più 2,7, Unipol più 2%, Mediobanca più 1,6, Popolare di Milano più 1,5, ancora sul mondo bancario, Generali più 0, bancario assicurativo più 0,6, Unicredit mezzo punto percentuale invece di calo. Tra chi è andato bene cito anche le Campari più 1,80, Luxottica più 1,90, Tenaris più 2,3%. Un'ultima notizia su Enel, l'abbiamo vista abbastanza in altalena oggi, in una giornata in cui invece gli energetici sono andati decisamente bene, e lì su varie ipotesi di possibili nuovi ingressi. Sì, Enel oggi è andata in altalena, aveva aperto molto bene dopo l'indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Stampa, secondo cui il fondo sovrano cinese China Investment Corporation sarebbe interessato a rilevare una quota significativa di Enel Green Power, ma anche ad entrare con una quota fra il 3 e il 5% direttamente in Enel. La notizia aveva fatto appunto balzare il titolo in mattinata, mentre nel pomeriggio in qualche modo si è un po' sgonfiato il titolo Enel fino a chiudere con un calo dello 0,62%. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Torneremo sui dati economici italiani, però come promesso, chiusa la pagina di borsa, parliamo adesso di una notizia che ha avuto comunque una sua influenza, e come se ce l'ha avuta sulla borsa. Mi riferisco a Fiat, che ha chiuso in rialzo del 4,85%, 7,70€ ultimo prezzo, dopo che questa notte la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato via libera all'accordo Fiat Chrysler. Poi vedremo che cosa ha respinto la Corte americana, e che praticamente alle 15:50 di oggi, ora italiana, un paio d'ore fa, è stata ufficializzata la nomina di Sergio Marchionne come amministratore delegato del gruppo Chrysler e Robert Kidder presidente. La nota era congiunta dei gruppi Fiat Chrysler. Giorno importante per l'intera industria dell'auto, ha detto Marchionne, e ancora dentro il CDA della Chrysler vi saranno tre componenti scelti da Torino. Siamo in collegamento con Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Laura, buonasera. Buonasera. buonasera a voi. Allora, che cosa ha stabilito la Corte Suprema dopo che ieri avevamo ampiamente spiegato i motivi del ricorso dei fondi pensione dell'Indiana, che si sentivano svantaggiati, diciamo così, discriminati rispetto al trattamento come creditori, e sapendo che le banche americane invece avevano fatto buon viso e cattivo gioco, le banche creditrici di Chrysler, perché nel frattempo stanno ricevendo aiuti dal governo. Laura. Ha stabilito sostanzialmente che il ricorso presentato dai tre fondi pensione dell'Indiana doveva essere respinto. Si può dire sostanzialmente che il supporto legale era abbastanza fragile, nel senso che non c'erano effettivamente gli elementi per poter dire sì a questi tre fondi pensione dell'Indiana, anche perché nel qual caso ci sarebbero stati degli effetti veramente pesanti sull'economia americana, perché avrebbe comportato probabilmente la liquidazione della Chrysler. Lo stesso Marchionne infatti ieri in tarda serata ha fatto capire che sicuramente la Fiat non intendeva mollare, voleva andare avanti sull'operazione, ma se l'ok fosse arrivato dopo il 15 di giugno l'alleanza andava rinegoziata, e a quel punto sarebbe stato molto più difficile riportare in bonis la Chrysler, cioè sperare in una ristrutturazione di successo. Corte Suprema ha stabilito che invece non aveva senso questo ricorso, e quindi si è proceduto all'integrazione, alla creazione di questa nuova realtà, la nuova Chrysler. Eh sì, perché il 15 giugno era la data ultima per concludere l'operazione. Come abbiamo spiegato anche ieri, il rischio era che, accogliendo la richiesta dei fondi pensione dell'Indiana, poi si aprisse, diciamo, il varco a tutto un insieme di richieste di ugual tenore, quindi aumentando di molto non tanto i soldi, che ieri venivano quantificati in circa 5 milioni di dollari i soldi richiesti dai fondi pensione dell'Indiana, ma i soldi dei creditori. A quel punto la cifra sarebbe lievitata a miliardi di dollari. Per quello che riguarda le attività della Chrysler, si è capito, cioè l'indicazione che è arrivata da Torino è di attività della Chrysler che a breve diventeranno di nuovo operative? Sì, di fatto sì, adesso gli step non sono ancora stati definiti completamente, però l'intenzione ovviamente è di procedere quasi immediatamente a un trasferimento della tecnologia, perché poi questa è la base sulla quale si è sviluppato tutto l'accordo Fiat-Chrysler, il che significa una sorta di condivisione delle piattaforme per lo sviluppo delle auto tra Fiat e Chrysler, quindi anche una condivisione delle reti di distribuzione, e successivamente poi, con l'andare del tempo, l'obiettivo vero è ripagare il debito nei confronti del governo e quindi permettere al governo americano di uscire dal capitale della Chrysler. Il primo step comunque sarà sicuramente quello del trasferimento della tecnologia e quindi rendere nuovamente operativi alcuni stabilimenti della Chrysler. Vedremo poi i vari, appunto, passaggi. Comunque l'indicazione è quella che nel più breve tempo possibile saranno resi operativi tutti gli stabilimenti della Chrysler interessati al nuovo gruppo, perché non tutto resterà dentro. Grazie a Laura Gavagni del Sole 24 Ore, e noi, come promesso, torniamo a occuparci adesso del PIL e della produzione industriale italiana. Ripetiamo, che si fosse messo in ascolto ora: meno 6% il dato dei primi tre mesi dell'anno sui primi tre mesi del 2008, meno 2,6 il PIL invece nei primi tre mesi di quest'anno rispetto agli ultimi tre mesi del 2008. Comunque un meno 6% anno su anno non si vedeva dal 1980. Va parzialmente meglio per la produzione industriale, nel senso che la produzione industriale, il dato questa volta di aprile, è a un meno 25% rispetto all'aprile del 2008, ma è a un più 1,1% rispetto a marzo. Purtroppo il Centro Studi Confindustria stima che comunque vi sarà a maggio invece una nuova flessione della produzione industriale. Il dato positivo mese su mese di aprile è il primo dato positivo nella produzione industriale da 11 mesi a questa parte. E se Emma Marcegaglia oggi ha detto la crisi è pesante, non so ancora se ne siamo fuori, perché ha colpito pesantemente anche l'Italia, così la presidente di Confindustria. Il ministro per lo sviluppo economico Scajola, a proposito dell'ultimo del dato sulla produzione industriale, quello congiunturale, il mese su mese, il più 1,1%, dice: beh, il peggio è passato, dovrebbe essere l'inizio della ripresa. C'è un inizio timido di lenta ripresa, il peggio è passato e guardiamo con più ottimismo il futuro. I dati bisogna saperli leggere, perché sono positivi, perché devono servire a capire come ci si deve comportare, ma devono essere letti bene. Ci sono i dati vecchi e i dati nuovi. Che la produzione industriale nell'ultimo anno fosse in calo è un dato evidente, che la crisi in questo paese ci sia è un dato evidente a tutti, ahimè. Noi stiamo valutando gli indicatori se questa crisi incomincia a finire, e allora io preferisco vedere il dato del più 1,1% di questo mese confronto al mese precedente, il che significa che si è interrotta la discesa e che c'è la speranza che sia iniziata la timida e lenta ripresa. Così il ministro Scajola. Più prudente invece il ministro Tremonti, lo abbiamo già sentito ma volentieri lo facciamo risentire, che invita alla prudenza, prudenza, prudenza, e usa un'espressione che ricorda gli esploratori, diciamo, del Cinquecento: terra incognita. Siamo ancora in terra incognita, non c'è mai stata una crisi fatta così, ecco, proprio non c'è mai stata, per origini, per dimensione, per dinamica. Quindi se io sono obbligato per legge a mettere un numero, applico la legge, ma se uno è convinto di che siano credibili quegli esercizi, o meglio, è giusto anche fare quegli esercizi, però quello che abbiamo convenuto in sede europea tra i ministri della nostra area, tutti a ridere, è stato che il vero stimulus non consiste nel darti il bonus per comprare qualcosa, ma nello staccare la televisione. Intanto il calo del PIL già acquisito, ripeto, visto che ce l'avete chiesto, acquisito vuol dire che se l'economia facesse zero nei prossimi trimestri, quest'anno si chiuderebbe già con un meno 4,7%. Professor Giacomo Vaciago, buonasera. Buonasera a tutti. Ha sentito il ministro Scajola un po' più ottimista, il ministro Tremonti invece molto molto prudente. A me, così, giornalisticamente piace molto questa espressione terra incognita, perché la dice lunga su un caso nuovo in cui non si può guardare i modelli precedenti per sapere con che velocità usciremo da questa crisi, quindi recupereremo i cali acquisiti in questi mesi. Di nuovo in diretta. Allora, quanto a PIL, a frenare sono stati proprio gli investimenti delle imprese, meno 12%, in calo ma molto più contenuto invece i consumi delle famiglie, meno 2%, e addirittura in crescita le spese della pubblica amministrazione, più 0,8%. Questo è il PIL italiano nei primi tre mesi dell'anno. Quanto ai settori, malissimo l'industria, meno 17%, tengono invece i servizi, meno 2,6%. Infine, sulla produzione industriale, questo è il mese di aprile e basta, bene l'elettronica, più 3,5%, in recupero anche le scarpe e l'abbigliamento, più 1,7%, in calo invece tutti gli altri settori. Professor Vaciago, qui sta diventando quasi un esercizio di retorica dire il peggio è passato, è rallentato è rallentata la caduta, sembrano quasi delle volte così giochi di parole. Beh, diciamo che prima bisogna capire cos'è successo. La frase più bella di Draghi del 29 scorso era: serve la paziente, faticosa comprensione di cos'è accaduto. Allora, non è una recessione, il mondo si è deindustrializzato, abbiamo una caduta del 25% media mondiale, l'Italia è esattamente uguale, la zona euro anche, della produzione industriale. La caduta è dal 15 settembre, quando fallisce Lehman Brothers, a tre mesi fa. Da allora siamo più o meno piatti. Questo è il grafico che dobbiamo capire e poi capire anche cosa succederà. La Bank of England, il governatore, ha detto: siamo caduti da una scogliera. Non è una recessione, nelle recessioni vai giù gradualmente, come lungo una scala, e la ripresa è tornare indietro su quella scala. Ma se tu cadi dal terzo piano e sbatti sul marciapiede, beh, la ripresa non c'è, se qualcuno non ti riporta su al terzo piano. Lehman Brothers significa illiquidità totale, credit crunch assoluto. L'unico modo con cui un'industria riesce a sopravvivere è cancellare gli ordini. Attenzione, investimenti, magazzino. Il consumo finale degli italiani e degli uomini del mondo è caduto del 2-3%. Gli investimenti del 15%, i magazzini si sono svuotati, gran parte del crollo della produzione industriale è investimenti e magazzino. Non a caso è grave soprattutto nei settori che producono per investimenti, pensiamo alla meccanica, alla siderurgia e così via. Man mano che ti avvicini al consumatore finale è molto meno grave. Il tessile va peggio dell'abbigliamento, perché l'abbigliamento è il capo finito. Il tessile è ciò che sta a monte ed è nel processo di produzione, e sono le scorte e gli investimenti. Benissimo, questo è quello che è successo. È un gradino enorme, dritto, verticale. In pochi mesi abbiamo deindustrializzato il mondo. L'Italia non fa eccezione, è un paese industriale, soffre come Giappone, Germania, eccetera. Le differenze sono minime. Allora, il problema vero non è quando ci sarà la ripresa, perché la ripresa in termini congiunturali, ci sono problemi, paesi già in ripresa. Il problema è quando torneremo a investire sull'industria e che tipo di industria. E saremo in grado di fare un più 25% in sei mesi, come abbiamo fatto un meno 25% in sei mesi, cosa che da Adamo ed Eva non era mai successa. Queste sono le battute di Tremonti sul nuovo mondo e sulla terra non conosciuta. E attenzione anche che prevedere come si ritorna indietro con i modelli congiunturali, ha ragione Tremonti, i modelli congiunturali non spiegano e quindi non servono a prevedere cose di questo tipo. Allora, ho capito che il salto in basso è stato fortissimo e casomai ci si è fermati dopo il salto dello scoglio, ma sempre in mare si è finiti. Ho capito che, e questo lo dicono, devo dire, tutti i dati, la crisi pesante, immemorabile negli ultimi decenni, ha colpito la parte alta della catena produttiva, cioè appunto le industrie che producono macchinari, beni, e da lì appunto i magazzini, ce lo chiedono gli ascoltatori. Magazzini vuol dire che vengono svuotati, nel senso che intanto usi la merce che hai in magazzino e non fai ordinativi industriali per tenerli pieni come prima, per essere un po' semplicistici. E lì infatti si vedono i dolori forti. Produzione industriale in crollo a due cifre, ordinativi in crollo a due cifre, fatturato dell'industria in crollo a due cifre. Più si avvicina al prodotto finale, al consumo, i consumi invece tengono un po' di più, infatti meno 2%. E questo è oggettivamente innegabile. Domanda: è automatico che però a un certo momento il crollo della produzione o questa discesa brusca, il mondo produce un quarto in meno nell'arco di meno di un anno, si trasferisca ai consumi? No, perché in gran parte finora l'assorbimento l'hanno fatto il conto economico delle imprese. Le imprese industriali, e la Marcegaglia rappresenta quelle italiane, e i suoi colleghi in giro per il mondo sono ugualmente depressi. Le imprese industriali hanno ridotto i costi, il magazzino e un po' l'occupazione. Ma non sono mica in media riuscite a ridurre i costi del 25. Quest'anno il conto economico dell'industria è in rosso. Primo fatto. Secondo fatto, attenzione però, che se la ripresa non arriva, sì, nei prossimi mesi, abbiamo il pericolo che la mortalità delle aziende, pur essa menzionata come preoccupazione ovviamente da Draghi, e soprattutto un ulteriore aumento di disoccupazione che retroagisce sui consumi, il secondo round. Questo è il vero pericolo. Per cui io non parlerei del passato, quello ormai non lo cambi più, vorrei sapere se il nostro governo a livello di G20, perché attenzione, se la crisi è mondiale, il nostro governo da solo non basta. Spero che questo lo condividiamo, però c'è un G20 che dovrebbe fare ancora qualcosa. Il nostro governo a livello di G20 far ripartire la ripresa mondiale e a livello nazionale impedire la mortalità delle aziende qui temuta e forte aumento della disoccupazione ancora temuto, anche se restiamo ai livelli attuali. Attenzione, le aziende stanno soffrendo sul conto economico, ma poi dovranno rilasciare ulteriore manodopera, perché chi ha un calo di 40% di produzione non può non ridurre di altrettanto i costi. Quindi anche qui lei ci sta dicendo, in questo trasferimento la crisi finanziaria si è trasferita sulla produzione industriale. Per ora quello che noi vediamo, abbiamo fatto una puntata recentemente, ne faremo una lunedì sui consumi, questo trasferimento non c'è stato per fortuna sui consumi, che calano molto molto molto meno rispetto ai dati dell'industria. Ci potrebbe essere, se ho ben capito il suo ragionamento, qualora la ripresa non arrivasse nei prossimi mesi e a questo punto tu, dopo aver esaurito le scorte di magazzino, utilizzato le ore di ferie, un po' di cassa integrazione, limato sui costi, ti trovi obbligato come impresa a licenziare, e allora lì poi è chiaro che l'operaio licenziato, il dipendente licenziato, non consuma o consuma pochissimo. Lì ce l'avresti anche sulla domanda interna. Ultimo aspetto che vorrei affrontare con lei, di nuovo lo spunto me lo dà il ministro Tremonti, di nuovo oggi dall'ACRI, riforme, riforme, riforme, Tremonti contrario a quella delle pensioni, sentiamo. Riforma delle pensioni, la chiedono quelli che non vogliono gli operai anziani in fabbrica, e il sistema europeo di pensioni vede l'Italia messa nella media. Si può fare di più, certo si può fare di più, se uno mi chiedesse cosa fare, e dirò cosa fare, adattare l'età all'andamento demografico generale, ma il tempo del welfare è la longue durée, sono le decadi, i risultati ce l'hai nel lungo andare. Questo non è un paese che ha bisogno di, e lo dice uno che l'ha fatta, la riforma Maroni-Tremonti aveva un impatto molto forte, altri hanno detto troppo forte, hanno tolto qualcosa e, come dice il ministro Padoa-Schioppa, hanno buttato via 10 miliardi di risparmi. Ma in ogni caso la riforma è in pista, anche smontato il gradino, di fatto il sistema è in equilibrio. Non abbiamo più bisogno di quelle manovre che modificano di colpo il progetto di vita di una persona per far su 8, 9, 6, 10 miliardi. Nella lunga durata dobbiamo fare degli adattamenti, ma devono essere le cose condivise con le parti sociali, in ogni caso delle cose giuste, che siano sentite come giuste. Non si fanno le manovre sulle pensioni. Non ha senso se vuoi la coesione sociale. Allora, professor Vacciago, brevemente, c'è chi dice proprio in un momento di crisi e di difficoltà è l'ora delle riforme, approfittarne, e chi, come ministro Tremonti, dice proprio per questa crisi e difficoltà il sistema pensionistico più o meno regge e quindi non si tocca. C'è una via di mezzo, che poi è quella che ha ricordato Draghi e tanti ne hanno scritto in questo anno. La via di mezzo è fare una riforma ambiziosa che non entra in funzione oggi per dar soldi da spendere, ma che modifica le prospettive di ciascuno di noi. E questo è chiaramente il trade-off che da 10 anni... e ancora continua a dirlo un collega economista, anche politico, Nicola Rossi, va ripetendo: per evitare che ti torni a casa il figlio disoccupato, sappi che lavorerai di più tu nei prossimi anni, per evitare che, perché sennò ti è consigliato di farlo se devi comunque mantenere il figlio. Allora, Draghi cosa ha detto? La riforma prima la facciamo meglio è, perché siamo già in ritardo. Ciascuno di noi campa per fortuna molti più anni e quindi però non è detto che debba dar cassa subito, stabiliamo già, è un problema di orizzonti, è un problema di evitare che di riforme, continuandosi a parlare senza farle, continuiamo a mantenere incerto il futuro nostro. Certo. diciamo, si può impostare anche se non si può non esercitare i suoi effetti nell'immediato. Grazie a Giacomo Vaciago, docente di politica economica alla Cattolica di Milano. Da Sebastiano Berisoni l'augurio a voi in ascolto di una buona serata. Focus Economia torna domani alle 17:00.